Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. minuti in questo esatto istante. Buona giornata, ben ritrovati gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori col vostro appuntamento con la grande attualità internazionale. I saluti vi arrivano anche da Margherita Ina, Gianni Rosini e Emanuele Brignoli a confezionare con me l'appuntamento di quest'oggi, Roberta Frisani in regia. Commenti e domande al 349-238-6666 oppure su Twitter nessunluogo24, ovvero il mio account personale Giampaz, e poi su Facebook nessunluogoelontano_radio24. Allora, l'avete sentito anche dall'anticipazione di quest'oggi alle 13, partiamo parlando di Porto Rico. Poco raccontato, molto lontano per noi, eppure un paese estremamente interessante per molte ragioni. Da un lato il suo passato, vittima del colonialismo, e il presente, vittima del debito pubblico. Per la notizia è quella che è stato dichiarato il default del piccolo paese che formalmente è legato agli Stati Uniti ma non è il 51esimo stato. Dipendenza probabilmente è la parola chiave per spiegare lo status anche anomalo giuridicamente di Porto Rico. Intanto buongiorno a Roberto Darini, inviato del Sole 24 Ore. Buongiorno a voi. Allora Roberto, inviato del Sole 24 Ore, ha vissuto in America Latina per anni, conosce molto bene quei territori, quelle regioni. Prima di andare ad analizzare questo caso anomalo di Porto Rico, vi raccontiamo la fotografia del paese. Stato libero associato agli Stati Uniti dal 1952, l'isola di Porto Rico dipende economicamente e politicamente da Washington, ma ambisce a diventarne il 51esimo stato. In un referendum del 2012, il 62% della popolazione ha infatti votato in favore dell'annessione completa, mentre aumentano i tassi migratori verso la terraferma. La popolazione è in declino dal 2006 e entro il 2050 i 3,6 milioni di abitanti attuali si ridurranno a 3 milioni. Tra il 2011 e il 2013 l'emorragia ha superato le 50.000 unità. Il 42% afferma di essersene andato per problemi di lavoro. La disoccupazione ha toccato il 14%, mentre quella giovanile supera il 25%. La politica di assistenza pubblica messa in campo dal governatore Alejandro García Padilla, di cui beneficia il 40% della popolazione, è però insostenibile. Il tasso di fertilità è sceso a 1,3 figli in media per donna, un dato confermato anche dalle scuole primarie, che fanno registrare un meno 40% nelle iscrizioni. Questi numeri sono insieme causa e conseguenza della situazione economica del paese. Oggi è arrivata la sentenza di Moody's: Porto Rico è in default. Il paese ha rimborsato ai creditori solo $628.000, ma il totale dei prestiti in scadenza nella giornata di ieri ammonta a $58 milioni. Il debito pubblico ha raggiunto i 72 miliardi, ovvero il 70% del PIL dell'isola. In altre parole, ogni portoricano ha contratto un debito da $20.000. E questi i numeri, le statistiche di Porto Rico, tante le anomalie. Roberto Darin, in molti hanno paragonato, complice forse l'etichetta default, no? Questo grande spettro, Porto Rico alla Grecia. Quanto può reggere questo confronto, secondo te? Può reggere molto poco, ma naturalmente il paragone in queste settimane era ghiotto e quindi tutti ci sono saltati sopra. In verità i punti di contatto sono pochi, perché sono due paesi molto distanti tra di loro, non solo culturalmente ma anche da un punto di vista economico e demografico. La Grecia ha 10 milioni di abitanti, Porto Rico 3,6, la Grecia è in Europa, Porto Rico è nell'orbita. È un paese caraibico nell'orbita degli Stati Uniti, e soprattutto, questa è la cosa più importante, la Grecia ha in adozione una moneta, l'euro, che condivide con tanti altri paesi europei, e il Porto Rico invece no. Quindi il default della Grecia, se ci sarà, in qualche modo trascina con sé una serie di problematiche gravi, con conseguenze impreviste per tanti altri paesi europei. Invece per Porto Rico questo non accade. Tuttavia è un caso molto interessante. Sì. Allora, l'interesse per questo paese lo ha, ovviamente lo aveva anche chi è originario di quel paese, Paco Vasquez, che è un regista, un documentarista che 3 anni fa ha firmato un documentario, appunto un affresco, che si chiama La Gran Falafia. Convulsión de 114 años del colonialismo más inmundo y más asqueroso que ha tenido ningún país en el mundo, en donde se ha pretendido transculturar al puertorriqueño, donde se ha pretendido educar a una serie de seres humanos. 114 anni di schiavitù, dice uno dei protagonisti intervistati da Paco Vasquez. Poi un altro che sentiremo dice la parola chiave: c'è una cosa peggiore della schiavitù, che è la dipendenza. Perché è così importante, Roberto Darin, questo piccolo stato, questa piccola isola per gli Stati Uniti? Beh, è in una posizione strategica innanzitutto, è a poche miglia dall'isola Hispaniola, che è un'isola politicamente divisa in due: da una parte c'è Haiti e dall'altra Santo Domingo. È un'isola a poca distanza dal Venezuela e a poca distanza da Cuba, quindi in un'area di interesse strategico per gli Stati Uniti. Nella scheda che ha preceduto la nostra chiacchierata viene detta una cosa molto interessante, che una battuta è questa: uno Stato libero associato agli Stati Uniti. È un ossimoro, è la grande contraddizione di Porto Rico, ed è il nodo, il punto focale di tutte le contraddizioni di questo paese. E soprattutto in questi giorni di default, in cui è scattato formalmente il default, le agenzie di rating lo hanno conclamato, torna alla ribalta una delle grandi contraddizioni e pericoli di questi giorni, e cioè il Fondo Monetario non potrà intervenire per aiutare questo piccolo paese, non potrà intervenire proprio per lo status politico che contraddistingue Porto Rico. Sì. Allora, se sei d'accordo, Roberto, andiamo a sentire le parole di Paco Vasquez, il regista, appunto, di questo documentario. La prima domanda è stata, ovviamente, qual è stata la reazione sua, del regista, ma anche della popolazione portoricana, alla notizia del default? Well, in my opinion is that has been very sad. E Paco Vasquez dice: è stato un giorno molto triste perché i politici hanno rubato e utilizzato male i fondi da parte loro e da parte delle corporation, delle grandi compagnie che stanno appunto dietro ai politici stessi. La seconda domanda l'ho solleticato appunto su quella parola chiave, che a me ha colpito molto. Peggio della schiavitù, dice uno degli intervistati nel documentario, è la dipendenza. Che cosa significa dipendenza per voi? Sentite Paco Vasquez. Well, what happened is that since 1898 the United States invaded Puerto Rico. E lui torna indietro nella storia, dice: quello che è successo è che nel 1898 gli Stati Uniti hanno invaso Porto Rico e hanno portato avanti una sorta di esperimento sociale, spingendo i portoricani a essere dipendenti esclusivamente dagli Stati Uniti. Questo include la legge di cabotaggio, per esempio, che permette di commerciare solo con navi che battono bandiera americana. In altre parole, non possiamo fare affari da soli, possiamo fare affari solamente con gli Stati Uniti. E questa è una delle ragioni, conclude Paco, per cui i nazionalisti dicono che noi siamo assolutamente dipendenti dagli Stati Uniti. È davvero una brutta schiavitù. L'ultima domanda è, gli ho chiesto se vede una soluzione per questa situazione, per il paese. Le statistiche sono impietose, c'è una forte emigrazione verso gli Stati Uniti. Che cosa si può aspettare Porto Rico dal futuro? Hey, Rod, a letter to the governor, like, e lì il racconto di Paco Vázquez ci svela che smette i panni del regista e mette quelli del politico, del potenziale politico, e dice: ho scritto una lettera al governo circa un mese fa suggerendo 5 soluzioni che potrebbero aiutare Porto Rico a pagare il debito. Ma io penso che prima di tutto Porto Rico debba essere indipendente come Stato. Tra le 5 soluzioni che proponevo, una era di far pagare tasse alla Chiesa, un'altra era di legalizzare la marijuana, eliminare la legge di cabotaggio e aprire le porte al commercio internazionale. Ho anche proposto, continua il regista, l'uso di energia solare, mettendo pannelli sopra gli edifici come i supermercati, senza avere un impatto sui campi agricoli. E infine un accenno alle multinazionali: ho anche proposto di riprenderci la terra dalla Monsanto e tenercela per noi. Uno dei vantaggi di Porto Rico, conclude il regista, è che abbiamo un clima tropicale. Qui si possono fare 4 raccolti all'anno e questo può migliorare la nostra economia. E questo era Paco Vázquez, regista di La Grande Falasia, film documentario realizzato, uscito circa 3 anni fa, che già raccontava i foschi presagi che poi si sono abbattuti negli ultimi giorni sulla piccola isola. Una piccola isola che è un caso tutto da analizzare per il suo status giuridico, per la sua vicinanza agli Stati Uniti, per la sua importanza, per i numeri impietosi. Roberto Darin, inviato al Sole 24 Ore, esperto di Latin America, quanto questo fallimento, se si dovesse proseguire, se non vi dovesse essere alcun salvataggio, potrebbe costituire un caso, un precedente importante e anche in qualche misura una prova per gli Stati Uniti? Ci sono stati altri paesi che sono caduti in default e gli Stati Uniti in qualche modo hanno veicolato delle soluzioni. Ora, quello di Porto Rico paradossalmente è piccolo, perché si tratta solo di un default di 50 milioni di dollari a fronte, sì, di un debito di 70 miliardi di dollari. Insomma, non sono cifre esorbitanti, però ci sono dei problemi di tipo legale che potrebbero amplificarne gli effetti. Quindi nessuno sa prevedere allo stato attuale come si uscirà da questa impasse. Di certo l'esposizione finanziaria di Porto Rico non è elevatissima, però appunto il fatto che il Fondo Monetario non possa intervenire, il fatto che la Banca Mondiale neppure, che ci siano appunto dei meccanismi che non lo equiparano a un qualsiasi altro piccolo paese tropicale fallito come è accaduto in passato, sì, può complicare la gestione di questo default. Grazie Roberto Darin. Ovviamente staremo a vedere, tu ne hai già scritto sul Sole 24 Ore di questa mattina, e fra l'altro ipotizzando un intervento, l'abbiamo sentito in apertura, di Jennifer Lopez, le cui origini sono portoricane. Lei, pop star, miliardaria, in effetti potrebbe pure dare una mano a questo paese. Facezze a parte, grazie Roberto Rin, buona giornata, buon lavoro. Grazie a voi. E allora, cambiamo pagina, adesso vi porto in Brasile. Agora o bicho vai pegar! Chegando em linha de bicho, pode parar com essa história de se fazer de defesa. E andiamo in Brasile, sulle note della colonna sonora di Tropa d'Elite, un film del 2007 di José Padilla, che tratteggiava gli interventi al limite della legalità, e poi in realtà sconfinavano, delle truppe speciali della polizia nelle favelas di Rio de Janeiro, lì dove insomma la situazione in alcuni casi era assolutamente fuori controllo. Insomma, tratteggiava i tanti chiaroscuri della polizia e delle forze dell'ordine di Rio de Janeiro in particolare. Questo perché vi racconto di quel film? Perché è uscito proprio quest'oggi un rapporto di Amnesty International, un rapporto che punta il dito. Vi ricordo che domani mancherà un anno alle Olimpiadi del 2016, che si terranno proprio a Rio de Janeiro. Punta il dito sulle forze dell'ordine, appunto di Rio in particolare, con esecuzioni extragiudiziarie, con un uso eccessivo della violenza. Un rapporto molto molto duro. Noi abbiamo raggiunto proprio dall'altra parte dell'oceano Renata Neder, che è una delle responsabili della stesura di questo programma. A lei abbiamo chiesto, fra le altre cose, quale pensa che siano le conseguenze dell'uscita di un rapporto come questo a un anno da un appuntamento così importante come le Olimpiadi. Sentiamo. On the one hand, we expect that the international visibility of the upcoming Olympic Games will help us to give international visibility for this. E Renata Neder di Amnesty International racconta, dice che speriamo che questa visibilità crescente verso i Giochi Olimpici di Rio aiuti a dare visibilità a queste violazioni dei diritti umani. Speriamo che le persone vengano sensibilizzate e uniscono le loro voci per far finire queste esecuzioni a Rio. È inaccettabile che nella città che ospiterà i prossimi Giochi Olimpici centinaia di persone vengano uccise ogni anno dalla polizia. Dall'altro lato speriamo anche che le autorità utilizzino questo report come un'opportunità per promuovere cambiamento e miglioramento delle condizioni denunciate da questo report e per promuovere anche cambiamenti nei modi delle operazioni da parte della polizia di Rio de Janeiro, cercando di promuovere rispetto dei diritti umani e non la loro violazione. Nel report che ho sotto mano sono raccontati parecchi casi. Un eclatante lo affido alle parole di Renata Neder. I would highlight two cases. One of them happened in the favela of Acari, where the police set up a kind of ambush that is. Allora lei ricapitola due casi. Uno di questi è quello di un bambino di 10 anni ucciso nel complesso di Alemà, una favela. Era fuori dalla porta della sua casa e è stato ucciso con un colpo d'arma da fuoco dalla polizia. Se non ci fosse stata la mobilitazione della famiglia e dei vicini, la polizia avrebbe rimosso il corpo, rendendo impossibile le indagini e potendo così far passare da criminale un bambino di soli 10 anni. E l'ultima domanda per Renata Neder di Amnesty International, che ha appena rilasciato questo rapporto in cui a un anno dai Giochi Olimpici punta il dito contro il modus operandi della polizia di Rio de Janeiro, è qual è la richiesta che Amnesty, che l'organizzazione, fa alla polizia? Well, to the police specifically is that all cases of homicide by the police killing should be investigated. Alla polizia in particolar modo chiediamo che tutti gli omicidi commessi dalle forze di polizia finiscano in mano agli investigatori della divisione omicidi. Attualmente esiste una differenza tra gli omicidi commessi dalla polizia e quelli commessi dagli altri cittadini. Quelli della polizia vengono trattati dallo stesso dipartimento e questo influenza la qualità delle indagini. Questa è la prima richiesta, a cui si aggiunge ovviamente quella che la divisione omicidi abbia tutte le risorse necessarie a svolgere correttamente le indagini. Allora, questo non è l'unico problema di cronaca che attanaglia il governo brasiliano in vista appunto di questo importante appuntamento, perché è notizia fresca di un nuovo scandalo corruzione in cui un ex ministro di Lula è stato accusato appunto di corruzione. Police in Brazil say they've arrested José Dirceu, who served as a chief of staff under then President Luiz Inácio Lula da Silva. He's the most senior member of the governing Workers' Party to be arrested as part of an investigation into alleged corruption at the state-owned oil giant Petrobras. Giulia Carnero reports. Allora, e questa è appunto la notizia dell'arresto del ministro legato allo scandalo Petrobras. Per capire quanto questa notizia e soprattutto il rapporto di Amnesty possa avere un impatto sul paese in vista delle Olimpiadi, Paolo Magri, vicepresidente esecutivo e direttore dell'ISPI. Paolo, buongiorno, ben ritrovato nel suo luogo lontano. Buongiorno a tutti. Allora, partiamo dal rapporto di Amnesty sulla polizia, che per dirla tutta non è una novità. Si sa che in molti casi la polizia brasiliana si è macchiata di comportamento non esattamente ortodosso. Questa è una denuncia molto articolata e molto dettagliata che arriva proprio a un anno esatto dalla scadenza olimpica. Un commento. Primo appunto è che non è una novità. La polizia militare brasiliana dipende dai governatori. Nell'epoca dell'oligarchia era il braccio armato dei potentati locali ed era violenta. Durante la dittatura ha accentuato la sua componente violenta e ha alimentato film, voi citavate poco fa Trotterlit, non è l'unico film che parla dell'intreccio fra violenza, traffico di droghe, traffico di armi. La novità qual è? La novità è che non è cambiato molto nonostante 13 anni di governo di sinistra, cioè un governo fatto di persone che sono state vittime nella loro gioventù della polizia militare. E l'altra novità è che getta ombre pesanti sul programma di pacificazione, questo è il nome altisonante utilizzato negli ultimi anni, il programma di pacificazione nelle favelas, che era quegli interventi, di fatto interventi militari della polizia e dell'esercito, che entravano nelle favelas per riportare la legalità. E citavate poco fa il complesso di Alemão, che è una delle favelas di Rio pacificata, e qual è la novità quindi che emerge? Che anche in questi interventi che dovevano portare la legalità si continuava a morire, e a morire anche per opera della polizia. A Rio si parla di 300 morti l'anno negli ultimi 5 anni. Cioè, il sindacato di polizia ha ricordato che ne sono morti all'anno un centinaio di poliziotti, però è un dato che contribuisce a gettare ombre su questa difficile fase del Brasile. Sì, e lo ripeto, a un anno dai giochi olimpici che si terranno appunto nel 2016, un anno esatto, agosto 2016 a Rio de Janeiro, e che molto ragionalmente, Dario Ricci, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Eccolo qua. Voce insolita per Nessun Luogo Lontano. Ma io sono un vostro ascoltatore fedelissimo, ecco, anche allora, non perdo neppure le repliche, allora, quindi guarda, grande onore oggi essere ospite. Ti abbiamo cooptato perché le Olimpiadi insomma sono materia tua, perché tu hai seguito i mondiali Rio de Janeiro, hai visitato anche alcune favela, hai fatto storie tra il sociale e lo sport, quindi ci darai un aiuto anche per capire insomma che benefici potrà avere, non solo economici, o che ha avuto dai mondiali e dalle Olimpiadi. Ma vorrei tornare da Paolo Magri, perché in realtà è vero, dicevi Paolo, getta delle ombre su questo appuntamento. Invece lo scandalo corruzione, quello mi sembra, l'ex ministro di Lula, quello mi sembra insomma un tassello pesante, no? Sì, ma anche qui non è una novità. La corruzione in Brasile è un dato endemico. Il Brasile ha già avuto un presidente della Repubblica, Fernando Collor, dimesso per impeachment per corruzione su fondi di beneficenza. E lo stesso Dirceu di cui parlavate poco fa non è nuovo alle cronache giudiziarie, perché è già stato allontanato da quando lavorava con Lula come capo di gabinetto per il precedente scandalo, il cosiddetto Mensalão, cioè quello scandalo in base al quale venivano presi dalle aziende che facevano affari con lo Stato dei soldi e venivano utilizzate per pagare i voti dei parlamentari. Qual è la novità di questa fase? Sono due, direi. La prima è che da 2 anni la presidente Dilma Rousseff è sulla graticola per l'altro scandalo che ha superato il Mensalão, che è lo scandalo del car wash, quindi lo scandalo Petrobras. Enormi quantità di denaro, e lei nella Petrobras lavorava, era un carico esecutivo. E la seconda novità è che Dirceu viene riarrestato, lo stesso Dirceu di 10 anni fa, ma si crea per la prima volta un legame fra il Mensalão, il precedente scandalo, e lo scandalo Petrobras, e questo porta nubi pesanti su Lula, perché Lula era uscito indenne dal precedente scandalo, adesso torna in carica il suo fedelissimo come accusato di uno scandalo importante, proprio nel momento in cui si parla fortemente di un ritorno di Lula per le elezioni presidenziali prossime, o nel caso Dilma Rousseff venisse soggetta a impeachment. Quindi è la politica molto pesante che tocca sia la presidente in carica che il possibile ritorno di Lula. Sì, sì, allora queste insomma sono fondamentalmente le due lunghe ombre che si allungano a un anno di distanza di questo grande appuntamento, che adesso racconteremo meglio anche grazie appunto a Dario Ricci. Però Paolo Magri, per te ho un'altra domanda. I mondiali del 2014 ebbero un costo attorno ai 13 miliardi, le ricadute sull'economia, pare che il PIL sia aumentato solo dello 0,2%, l'occupazione, lì i numeri sono proprio impietosi, si era previsto un 3,6 milioni di posti di lavoro in più, invece pare che tra 2009 e 2014 siano stati solo 700 mila, delle grandi opere su 93 soltanto 36 sono state completate. Quindi la domanda è questa: i grandi eventi, che è poi la domanda chiave solita che ci si fa sempre, i grandi eventi quanto possono avere un impatto e una ricaduta sull'economia? Mi fai uno slogan, perché poi c'è la borsa che incombe, e poi mi dai più... Ti faccio uno slogan, basti pensare alla Grecia. I casi in cui i grandi eventi hanno portato dei grandi risultati sono stati limitatissimi. Il Brasile non è fra questi grandi risultati, in più è avvenuto in un momento in cui tutto cominciava ad andare a rotoli, e quindi si è enfatizzato quel senso di sconfitta dei grandi eventi che c'è in genere, e qui è passo ancora più grave. Sì. Paolo Magri, stai con noi, Dario Ricci anche tu, adesso c'è l'informazione finanziaria. Nessun luogo è lontano. Seconda pagina di Nessun Luogo Lontano, ben ritrovati gentili ascoltatrici e ascoltatori. Stiamo parlando di Brasile dopo che abbiamo sorvolato Porto Rico cercando di inquadrare questa anomalia, che è in parte giuridica, in parte economica, con la notizia del default, e per cercare di capire quanto Porto Rico sia assimilabile alla Grecia. E poi in Brasile, dove c'è lo scandalo corruzione per un ex ministro del governo Lula, l'ombra lunga del mancato rispetto dei diritti umani con questa investigazione di Amnesty International che punta il dito contro la polizia, insomma tutte in realtà non grandissime novità, però a un anno dai giochi olimpici sono ombre lunghe che pesano sulla gestione di un evento così grande. Voltei pra defender nossa bandeira, levanta acampamento guerreiro, é hora de avançar. Vamos falar de preconceito social, o que te faz ser doutor e o que te faz ser marginal. Vamos falar de preconceito social, o que te faz homem do bem e o que te faz homem do mal. E siamo sempre con Paolo Magri, direttore di ISPI, per analizzare un po' meglio appunto queste due vicende, queste due notizie, che impatto possono avere. Paolo, ti ho chiesto uno slogan prima, ma allora abbiamo analizzato i dati del Mondiale 2014, no? Si diceva investimenti di 13 miliardi, ricadute sull'economia brasiliana PIL più 0,2%, occupazione, promessi 3 milioni e mezzo di posti di lavoro, in realtà solo 700 mila, opere, grandi opere completate 36 su 93, insomma un impatto assolutamente discutibile. Le Olimpiadi di Rio prevedono almeno 10 miliardi di investimenti. Mondiali, occasione persa, e le Olimpiadi, Paolo Magri. Ah, sì, c'è il rischio che nell'attuale situazione del Brasile, con una situazione economica pesante, molto più pesante dello scorso anno, qui siamo a una recessione di meno 2% di fatto, e con una situazione politica aggravata dello scorso anno. Lo scorso anno avevamo semplicemente le proteste, adesso abbiamo una presidente che ha una popolarità ai storici, nessun presidente americano brasiliano ha avuto questa bassa percentuale di approvazione, e con grandissime difficoltà con i partiti della coalizione, con il presidente della Camera e del Senato. Quindi in questo quadro di stagnazione economica, di difficoltà politica, un nuovo appuntamento che è una vetrina, ma non delle cose positive come speravano i brasiliani, ma diventa una vetrina di ciò che non funziona, c'è il rischio di grandi pasticci. Questo è il quadro e che tutti temono. Non parlo di pasticci in termini di proteste o di scontri che abbiamo visto lo scorso anno, ma di una situazione di sfilacciamento pesante. Sì, che pure il rischio delle proteste, quello c'è sempre, non è ipotizzabile, anche perché i giochi olimpici saranno concentrati in Rio de Janeiro, quindi che è una città che vive anche di forti tensioni. Insomma, leggendo il rapporto di Amnesty si evincono parecchie cose. Io non ho mai avuto la fortuna di lavorare, di visitare Rio, però insomma ci sono delle contraddizioni. È una città difficilissima da presidiare, perché è una città fatta dal mare da una parte, da colline, favelas arroccate sulle colline, con delle strade che collegano dei vari quartieri, quindi è una città complicata da quel punto di vista. Quindi sì, c'è anche questo rischio, ma il rischio principale è quello dell'occasione sprecata. Ecco, il Brasile doveva celebrare con la Coppa delle Americhe, con le Olimpiadi, il campionato del mondo, il suo ingresso nel club dei grandi, ingresso che ha già tentato in passato, ma questa volta era la volta buona. Chiaro. In realtà sembra che non sia la volta buona. Grazie mille a Paolo Magri, vicepresidente e direttore di ISPI. Buona giornata, buon lavoro Paolo. Buona giornata. Roberta Fisani, poi però rimettiamo Orfeo Negro, appoggiamoci un po' a una visione elegiaca brasiliana che sia così, ben augurante. Dario Ricci, allora, hai sentito i numeri, ricapitolavo, no? Investimenti sia sui mondiali che sulle Olimpiadi, scusate. Paolo Magri è molto netto e anche molto pessimista, occasione persa sui mondiali e attenzione perché il rischio di perdere il treno sulle Olimpiadi c'è. Tu come la vedi? Hai visto, hai raccontato per Radio 24 i mondiali, sei pronto, stai già scaldando i motori, non lo so, per andare alle Olimpiadi? Ci stiamo allenando. Beh, intanto concedimi la battuta, direi che intanto la nazionale brasiliana di calcio ha somatizzato lo stato del paese, visto il Mineirazo e anche la Coppa America recente. Devo dire che non sono però questi appuntamenti gli indicatori migliori per misurare lo stato di un'economia, no? Come sottolineava lo stesso Magri, i fondamentali economici sono altri, e una festa o un evento, per quanto può durare un mese, attirare e catalizzare l'attenzione dei media, richiedere anche investimenti ingenti, in realtà poi ha sempre impatti economici, numeri duri e puri, veramente sì, molto limitati. Cioè, questi report che danno questi numeri impietosi erano gli stessi che già erano stati in qualche modo presentati dalle fonti indipendenti durante gli stessi mondiali brasiliani. Io direi devono essere i primi soldi da risparmiare sono quelli per fare i report a sostegno di queste candidature, che sì, spesso citano cifre esorbitanti, spesso smentite dai fatti, quindi già quello potrebbe essere una spesa da risparmiare. Purtroppo il problema del Brasile è il ricambio, la qualità della classe dirigente, un mercato economico spesso asfissiato da misure protezionistiche e un'economia che vede in crisi ben altri fondamentali, quindi è quello un po' il problema. Sì. Dario, andiamo invece a un aspetto che molto spesso è trascurato, però chiacchieravamo prima in redazione, lo possiamo svelare, insomma, non è che... Sì, ci siamo messi d'accordo. Allora, esiste una ricaduta che non è solamente economica quando sono eventi di questo tipo, che è una ricaduta emotiva, è una ricaduta come possiamo definirla? Sicuramente immateriale, reputazionale, ecco. Forse immateriale. Beh, prendendola un po' alla larga, noi siamo abituati a fare tutte le nostre cose, anche i nostri investimenti, dando per scontati due beni immateriali preziosissimi, che sono tempo e salute, no? Di cui ci rendiamo conto dell'importanza solamente quando vengono a mancare. Ebbene, a livello internazionale e a livello di relazioni, la reputazione è uno di questi beni immateriali che stiamo imparando anche a misurare con criteri sempre più scientifici. Basti pensare a cosa accade per esempio alla nostra reputazione sul web, sui social, no? Sì. Effettivamente ormai è in qualche modo misurabile, sappiamo quanto ci costa caro un tweet o un post su Facebook sbagliato. Sì. Ebbene, forse è questo il modo nuovo e diverso per misurare l'impatto di questi grandi eventi sulla storia, intesa anche economica, sociale e politica, di un paese. Cioè il Brasile farà questa doppietta, mondiali e olimpiadi. Sui mondiali il risultato poi in termini organizzativi è stato insperato, sì, perché non a caso poi la presidenta ha passato l'ostacolo delle elezioni. Cioè anche il fallimento della squadra calcistica non ha avuto alcun impatto, cioè la rete organizzativa tutto sommato ha funzionato. Probabilmente questo potrebbe accadere, lo vedremo anche per i giochi di Rio, e chissà che magari il far bene anche con politiche, con practices diverse, questi eventi non possa anche rappresentare un patrimonio immateriale ma altrettanto prezioso per quel paese. L'esempio che mi viene più in mente è proprio a noi vicinissimo, Torino 2006, una città che in qualche modo ha cambiato volto con quei giochi e che poi ha visto anche sul medio termine rivalutati alcune delle scelte e degli investimenti fatti allora. Non tutto è stato sbagliato e non tutti quelli che sono venuti dopo hanno saputo far meglio, anzi. Sì. Insomma, tu dici c'è questa ricaduta di immateriale. Sì, è un po' lo stesso motivo, scusami, per cui ci chiediamo: ma perché i presidenti delle squadre di calcio comprano un club se le entrate sono 2 sì, e le uscite sono 20? Però sederti al tavolo da presidente di determinati club forse ti apre delle possibilità, diciamo che quell'aperitivo si arricchisce di qualche bollicina. Insomma, in buona sostanza esiste un effetto leva che è prettamente emotivo, è prettamente appunto reputazionale, che non necessariamente ha una ricaduta immediata sul paese, sul business, sui conti, sui beceri conti, ma che nel futuro insomma potrebbe dispiegare le sue energie. Grazie mille Dario Ricci, buona giornata e buon lavoro, Dario. Buona sorte. Ecco, ci siamo anche lasciati andare un po' di afflato elegiaco per chiudere in bellezza. Questa era la colonna sonora di Orfeo Negro, un film meraviglioso, iper poetico, l'opposto di Troppa d'Elite, tratto da una pièce teatrale di Vinicio de Moraes, molto molto bello. È il mito di Orfeo, ridice in chiave moderna e ambientato a Rio de Janeiro. Su questo brano meraviglioso, famosissimo, si chiudeva appunto quel tratteggio di Rio de Janeiro che i cui toni speriamo ovviamente di ritrovare tra esattamente un anno con le Olimpiadi. Adesso però voltiamo pagina e andiamo in un altro continente. E allora questa pagina africana la apriamo intanto con un piccolo aggiornamento del Burundi. Vi ricordate, vi abbiamo raccontato il post elezioni. Pochi giorni fa era stato ucciso il numero 2 del presidente, il generale Adolphe Nshimirimana, mentre di poche ore fa la notizia del ferimento di un attivista, un Bonimpa, che sarebbe tuttora in ospedale, le cui sorti ancora non sono chiarissime. Perché vi riparlo del Burundi? Perché dopo quelle controverse elezioni che gli osservatori internazionali hanno bollato come non credibili, ovviamente il presidente al suo terzo mandato è lì sul filo del rasoio, e questi ultimi omicidi o tentati omicidi chiaramente alimentano e agitano lo spettro di nuove violenze. Vi ricordo che prima delle contestatissime elezioni c'era stato anche un tentativo di colpo di Stato che era durato poche ore, perché poi i golpisti siano dovuti andare alla fuga. Non solo Burundi, ma anche e soprattutto Nigeria e in particolare Boko Haram. Ne parleremo con Emilio Manfredi, a cui do intanto il mio buongiorno e benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Emilio. Ciao, buongiorno a tutti voi. Allora, Emilio Manfredi è ex giornalista, attualmente ricercatore e analista freelance, collabora per varie grosse organizzazioni come International Crisis Group, fra gli altri, ma è anche scrittore, ma questo è il suo lato oscuro, ne parleremo poi più tardi. Allora, adesso andiamo a vedere il traffico, andiamo a sentire il traffico sulle strade e poi di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano. Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati, ultima pagina di Nessun Luogo è Lontano. Ci siamo spostati in Africa per un brevissimo aggiornamento sul Burundi, piccolo paese della regione dei Grandi Laghi, ma estremamente importante perché ha vissuto quello che dovranno vivere altri paesi come la Repubblica Democratica del Congo, il Congo Brazzaville per esempio, ma anche il Ruanda. Cioè, presidenti al terzo mandato, la Costituzione impedisce loro di ricandidarsi, eppure lo fanno, con conseguenze a volte drammatiche. In Burundi vi sono state una serie di violenze, elezioni celebrate ugualmente. Vi davo conto dell'omicidio del numero 2 appunto del presidente, dell'attivista ferito in un attacco, mentre un giornalista di Agence France-Presse che era finito nelle mani delle forze dell'ordine per essere interrogato ieri è stato rilasciato, ma si trova in pessime condizioni in questo momento all'ospedale. Ha affermato di essere stato violentemente picchiato appunto dalle forze di sicurezza burundesi. Detto ciò, però, vogliamo parlare di Boko Haram. Siamo con Emilio Ernesto Manfredi. Innanzitutto una fotografia di Boko Haram e poi lo raccontiamo meglio. E questo è l'ultimo video che è stato rilasciato in rete dai militanti di Boko Haram. Adesso lo analizzeremo meglio, ma chi sono i militanti di Boko Haram? Ascoltiamo. Rifiuto della cultura occidentale, islamismo radicale, attentati, stermini di massa e fedeltà nei confronti dello Stato Islamico di Abu Bakr al-Baghdadi. Sono queste le caratteristiche che contraddistinguono i guerriglieri fondamentalisti di Boko Haram, movimento terroristico fondato nel 2002 dal leader islamista Mohamed Yusuf, e che oggi è riuscito a proclamare un emirato islamico nel nord-est della Nigeria. Il gruppo di combattenti, il cui nome può essere tradotto con «l'istruzione occidentale è vietata», è il prodotto di una campagna di reclutamento iniziata nel 2002. In quegli anni Yusuf fondò la sua prima scuola islamica a Maiduguri, attuale capitale dell'emirato. Sfruttando il malcontento della popolazione, il gruppo si propose come alternativa al governo di Abuja. Le famiglie del posto mandarono così i propri figli a studiare nelle scuole di Yusuf, ma l'organizzazione si rivelò presto un luogo di reclutamento per giovani jihadisti. Le prime azioni militari del movimento risalgono alle rivolte del luglio 2009, pochi giorni prima dell'uccisione di Yusuf per mano dell'esercito nigeriano. A capo del gruppo sale l'attuale leader, Abubakar Shekau, che si distinguerà dal suo predecessore per un'ulteriore radicalizzazione del pensiero e per l'uso continuo della violenza nei confronti di miscredenti nigeriani occidentali e di militari governativi. Gli uomini di Shekau faranno parlare di sé con rapimenti e uccisioni di massa, l'uso di donne e bambini per compiere attentati kamikaze e importanti vittorie a scapito dell'esercito regolare. Questi successi hanno permesso ai guerriglieri di conquistare un vasto territorio nell'area nord-orientale del paese, dando vita così all'emirato islamico nigeriano. Allora, Emilio Manfredi, analista, freelance, ricercatore che ben conosce quell'area perché ama scorrazzare in quei paesi a caccia di storie, a caccia di report. Partiamo dal video, Emilio, se sei d'accordo, che penso tu abbia visto, abbia analizzato. Si vedono miliziani di Boko Haram che sferrano un attacco a una città e poi il tutto più o meno si conclude con la presa in prigionia di un militare nigeriano. Intanto si vede un gran dispiegamento di mezzi, poi mi viene da dire dal punto di vista tecnico della manifattura proprio del video siamo molto lontani dagli altissimi standard qualitativi a cui ci ha abituato ISIS. Cosa ne pensi di questo video, Emilio Manfredi? Penso che sia un video che rientra nel solco di ciò che Boko Haram ci sta proponendo in termini di comunicazione di massa. È migliorato un po' rispetto al passato. Sentivo un collega prima che si intende di queste cose, che mi diceva che comunque secondo lui c'è una mano già un po' più raffinata, anche se ovviamente ancora lontanissima dalle sofisticazioni quasi hollywoodiane che vediamo in Medio Oriente. E poi per la seconda volta non c'è il leader di Boko Haram, cioè dello Stato Islamico, della provincia dell'Africa occidentale dello Stato Islamico, come si fanno ora a chiamare insomma i miliziani dell'allora Boko Haram. E quello che dobbiamo chiederci, però, io non ho una valutazione che riguarda il fatto che questo video significhi che Shekau sia deceduto, sia stato ferito o si stia nascondendo. La cosa più interessante è che il gruppo è riuscito in tutto questo tempo a mantenere molto oscura e molto coperta la sua struttura e la sua leadership, a differenza di altri gruppi simili molto noti nel mondo, di cui bene o male si conosce l'organigramma della dirigenza. Sì. E fra l'altro queste ombre, insomma, che si allungano sulla leadership e sulla struttura gerarchica di Boko Haram, ovviamente rende tutto molto molto più difficile. Dobbiamo anche considerare che Boko Haram negli ultimi mesi, negli ultimi anni, ha allungato le sue mani in altri due paesi confinanti, Chad e Camerun. E Emilio, ti leggo un'agenzia che è uscita proprio meno di un'ora fa. Le autorità camerunesi avrebbero espulso 3.000 nigeriani nell'ambito della lotta contro gli integralisti islamici di Boko Haram, sto leggendo testualmente il dispaccio. Evidentemente si tratta di una misura, come dire, eccessivamente preventiva, perché dubito che fossero 3.000 affiliati a Boko Haram, però questo ci dà la dimensione di quanto un'organizzazione che era nata con ambizioni molto locali stia andando a impattare anche sui paesi vicini, principalmente Chad e Camerun. Come hanno potuto Boko Haram, penso ai tempi del 2009, no? Prima dell'uccisione di Mohamed Yusuf, insomma erano molto provinciali, con obiettivi molto regionali, poi ci fu l'escalation, l'attentato alla sede ONU di Abuja, la ribalta internazionale, adesso fanno davvero paura. Ma sì, è vero. Intanto i paesi sono tre, aggiungerei il Niger ai due che tu hai citato, sì, dove c'è una presenza molto forte. La spiegazione più semplice è quella che queste zone sono zone in cui i confini hanno un senso abbastanza relativo, invece le affiliazioni etnico, tribali e commerciali hanno i legami che ne conseguono hanno invece molta più importanza. E ad esempio la componente Kanuri, dell'etnia Kanuri all'interno del movimento Boko Haram ha sempre avuto grossa rilevanza, e i Kanuri sono distribuiti in questi quattro paesi che abbiamo appena citato, cioè Nigeria, Niger, Camerun e Chad, oltre che in altri luoghi della regione in maniera minore. Sì. E poi il fatto che il sottosviluppo oppure lo sviluppo di alcune etnie, di alcuni gruppi, di alcune elite a discapito della maggioranza della popolazione invece è un valore molto diffuso, e la risposta diciamo purificatrice alla corruzione degli attuali governanti ha sempre una presa molto facile su popolazioni comunque molto isolate, in cui il livello culturale parte diciamo quello locale tribale molto basso, e invece la risposta di una forza che si propone come alternativa a uno stato o a stati visti come molto lontani e molto poco favorevoli allo sviluppo umano in queste zone è sempre molto, molto interessante. E poi Emilio, bisogna forse anche aggiungere che molto spesso risposte brutali da parte della polizia nigeriana nel nord del paese hanno esacerbato insomma certi sentimenti, e quindi forse il reclutamento di alcuni giovani è risultato molto molto più facile. Ci torneremo su Boko Haram perché è veramente interessantissimo come caso da studiare, da analizzare, per capirne anche la portata. Adesso però, Emilio, ti chiedo di spogliarti dei panni dell'analista e di vestire quelli dello scrittore, perché io ho letto tutto d'un fiato, due giorni mi sono letto La vita è brutale e poi muori, che è un romanzo edito da Mondadori, che è il tuo esordio. Allora, io sono sempre un po' refrattario, nel senso che i romanzi scritti da giornalisti, ex giornalisti, insomma, c'ho sempre un po' di, lo confesso, un po' di remore. Però, evidentemente, è un libro che si fa leggere perché avevi delle cose da dire. È la storia di un giornalista, ci sono traffici di droga, c'è la guerra, lo sfondo della guerra civile in Costa d'Avorio. Insomma, vi consiglio di leggerlo, quello assolutamente, perché scoprirete una certa Africa. Però, Emilio, quanto c'è di biografico in quello che hai raccontato? Ma non mi sono, forse per mia fortuna, soprattutto per la mia fedina penale, mai trasformato in spacciatore di cocaina, nonostante il giornalismo freelance non sia mai stato, insomma, il mestiere che paghi meglio nella vita. A parte questo, diciamo che lo sfondo e le storie, le tematiche e i paesi che ho voluto raccontare sono paesi che ho attraversato per molti anni, dove vivo da molti anni e ho cercato di raccontare storie mie, sicuramente storie di cose che ho visto e che non potevo raccontare attraverso una pura scrittura giornalistica, e soprattutto che secondo molti non erano interessanti per il lettore dei settimanali e dei quotidiani, che invece a mio giudizio poi aprono degli spaccati molto più veri, molto più dolorosi, e che forse aiutano anche di più a capire o a lasciarsi coinvolgere dalle notizie. Sì. E ho apprezzato insomma certe descrizioni, si vede che in quei luoghi ci sei stato, e allora, ripeto, per chi non conosce l'Africa forse ne avrà una visione un po' violenta, un po' cruda, però allo stesso tempo anche alta, alta, poetica, con delle cose belle. E questo è il lato oscuro, come dico io scherzando, di Emilio Manfredi, che è analista, ricercatore per varie organizzazioni, tra cui Human Rights Watch e International Crisis Group, che però ha scritto quest'estate La vita è brutale e poi muori, anche il titolo è brutale. Il consiglio da parte mia è di leggerlo e poi ci farete sapere. Grazie Emilio Manfredi per essere stato con noi, buona giornata. Buon lavoro Emilio. Grazie, buon lavoro a voi. E allora ho 40 secondi e allora posso declamare con calma i titoli di coda. E Posso quindi ringraziare Margherita Ina, Gianni Rosini, Emanuele Brignoli che hanno confezionato con me questa puntata, Roberta Frisani che le ha dato musica e ritmo a voi che siete stati all'ascolto. Vi ricordo le repliche questa sera ore 23, domani mattina ore 6:30 e poi l'appuntamento è per domani ore 16, quando di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano. Intanto un saluto da Giampaolo Musumeci.